Ma io un giorno vorrei fare un libro con le causali dei versamenti di questa campagna di crowdfunding, perché sono bellissime. Perché anche degli adesivi da restituiscono una, la bellezza di questo paese, cioè proprio il matrimonio di Daniele e Giulia, che non hanno voluto regali, hanno chiesto di fare donazioni a Mediterranea, 40 anni di Dario, le cene di parrocchia, una signora emiliana, questo è indimenticabile. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Settembre 2019. Sto andando alla giornata iniziale di Porti di Terra Festival a Benevento, che durerà fino a domenica 29, giornata del migrante e del rifugiato. Google Maps è impazzito, sono in ritardo e mi consiglia di svoltare a destra in piena zona pedonale. Per evitare scene alla GTA parcheggio la macchina e, nonostante le indicazioni sbagliate ricevute inizialmente da una signora su Corso Garibaldi, arrivo al bellissimo auditorium di San Vittorino. Durante il tragitto la signora non può fare a meno però di ricordarmi che il sindaco della città è Clemente Mastella. Non so perché, ma per tutto il tragitto, per non pensare al ritardo che sto accumulando, invento filastrocche senza senso che fanno rima con Clemente Mastella. Arrivo. L'architettura è fantastica, c'è tanta gente, per lo più che sorride, hostess, un buffet tendenzialmente plastic free e una cartellina piena di materiale interessantissimo. Leggo il programma completo e mi rammarico di non poter seguire tutto l'evento. Oggi proverò a raccogliere qualche riflessione di Alessandra Sciurba di Mediterranea, della reporter Eleonora Camilli, di Nicola Di Blasio e Gabriella Giorgione, che sono tra gli organizzatori del festival. Il nome di Nicola e di Gabriella nella mia mente sono associati ad un libretto rivoluzionario, dal titolo L'Italia che non ti aspetti, manifesto per una rete dei piccoli comuni del welfare, pubblicato nel 2018. È un manuale di sopravvivenza delle aree interne, di rigenerazione delle comunità, di cui il festival è solo la punta dell'iceberg, secondo me. L'idea è quella di innescare processi di economia circolare per creare benessere e sviluppo all'interno delle comunità che altrimenti rischierebbero di scomparire dalla faccia della terra. Una visione lunga di territorio, chiara e semplice. Nella folla trovo il volto sorridente di Alessandra Sciurba. Siamo qui con Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea. E Alessandra, è un po' strano per te trovarsi in un porto di terra? No, non è, c'è una bimba bellissima sta giocando con il nostro microfono. No, non è strano, è naturale perché Mediterranea nasce proprio così. Noi abbiamo sempre parlato di equipaggi di mare ed equipaggi di terra e abbiamo sempre pensato che quello che stavamo facendo in mare avesse un valore enorme non solo per le persone che avevamo il privilegio di incontrare nel Mediterraneo, ma anche per tutti noi a terra. Noi arriviamo in un momento in cui questo paese è stato, uso il passato con qualche dubbio, non sono convinta che ne siamo ancora usciti, ma davvero davvero in pericolo. Noi siamo andati in mezzo al mare per salvarci e i nostri equipaggi di terra, cioè le migliaia di persone che sono attivate per Mediterranea, questo l'hanno capito subito. La nostra nave è una nave vera che salva delle vite, ma anche un simbolo che naviga in terra con migliaia di iniziative. È stato un pretesto, è stato uno strumento per tantissime persone che in questo paese avevano voglia di dire delle cose importanti, quindi Porti di Terra ci rispecchia pienamente, siamo felicissimi di essere qui. C'è stato un cambio, si avverte un'atmosfera diversa, un vento diverso? Allora, intanto le nostre due imbarcazioni, una barca a vela, quella di cui ho raccontato oggi, e Mare Ionio sono sotto sequestro. Abbiamo ancora 366.000 euro di multa da pagare per il decreto sicurezza bis, quindi direi che non possiamo sperimentarlo andando in mare questo cambio. Ci piacerebbe che ci dissequestrassero subito. Noi, come Sea-Watch 3, come tutte le navi che sono paradossalmente sequestrate per avere salvato delle vite, questo sarebbe già un gran bel segnale. Siamo contenti se si eviterà lo scempio degli stand-off di giorni, di settimane, con persone fatte scendere solo quando erano in fin di vita, completamente fuori di senno, perché sono condizioni veramente difficili da vivere. Ma chiaramente questo non è un cambio di segno strutturale. sentire ribadire contestualmente a questo accordo che la Libia va benissimo, che la Guardia Costiera Libica fa un lavoro straordinario. Cioè, stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di persone che l'Europa e l'Italia addestrano a catturare profughi di guerra e riportarli sotto le bombe. Allora, sentire Presidenti del Consiglio, Ministri dell'Interno che affermano che dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa fa veramente impressione, perché vuol dire dare alle fiamme la nostra Costituzione. Qui non è il problema dei diritti degli altri, è il problema che c'è uno Stato di diritto. Io sarò ingenua, sarò troppo affezionata, a, come mi è stato detto varie volte, no, all'idea che esistano dei limiti al potere politico, alle decisioni che si possono prendere, che questi limiti siano stati imposti dopo il nazifascismo dai diritti fondamentali delle persone, però è esattamente questo che si sta tradendo. E su questo io non vedo nessuna marcia indietro in questo momento, e dire, come ha detto qualche altro ministro, che basta riconvertire i centri di detenzione libici in centri di accoglienza significa davvero mentire sapendo di mentire, oppure non avere davvero idea da ministro degli esteri di qual è la situazione in quel paese. Allora inviterei il nostro ministro degli esteri a farsi una passeggiata dentro quei centri di detenzione e poi a raccontarci che si possono convertire in dei luoghi di accoglienza in mezzo alle bombe di una guerra. Venite sempre citati come l'unica ONG italiana. Sì, non siamo una ONG. Questa è la cosa che non siamo mai riusciti a fare passare questo messaggio. Ma va bene, c'è nessuna presa di distanza dallo straordinario lavoro delle ONG, che sono le nostre compagne di strada, di mare, di viaggio, e che sosteniamo sempre e da cui abbiamo imparato tantissimo. Però non siamo una ONG, siamo una piattaforma della società civile italiana composta da tantissime associazioni. Siamo nati da un gruppetto di 6 associazioni, ma è diventato con dentro dall'Arci, il centro sociale di Abbassa di Bologna, un co-working ristorante di Palermo che è Multivolti, una rivista online, I Diavoli di Milano, Sea-Watch stessa che all'inizio ci ha dato una grandissima mano, la comunità di San Benedetto al porto di Genova, di Don Gallo. C'è davvero un mondo molto variegato che adesso è diventato incalcolabile, perché la quantità di adesioni, di amore, di abbracci, di reti che si è creata intorno a Mediterranea, per fortuna ci è completamente sfuggita dal controllo. E questo è Mediterranea, una piattaforma della società civile che ha deciso dal basso di non tanto di opporsi a qualcosa, perché noi non abbiamo mai avuto un pensiero in negativo, ma di partire da un atto concreto, basilare, elementare, il più semplice di tutti, cioè salvare delle vite per provare a salvare questo paese. Ci siamo detti all'inizio, dobbiamo proprio invertire questo slogan: prima gli italiani. Prima gli italiani e le italiane, direi, ma in che cosa? Nell'umanità, nella difesa della nostra Costituzione, nel metterci la faccia, i corpi, nel rischiare, nell'avere coraggio, nel fare le battaglie giuste, nel riscrivere la storia. Allora in questo sì, ben venga, prima gli italiani e le italiane, che poi per fortuna sono sempre più con la pelle scura, capaci di parlare i dialetti africani o asiatici, non si riesce a capire che la forza e la ricchezza sta sempre nelle differenze, nel sincretismo. Mediterranea nasce dalle differenze, dal sincretismo, ed è quello che cerca di portare avanti, di difendere, mostrando sempre anche la bellezza di quello che facciamo. Io penso davvero che chi in questi ultimi anni si sia fatto riempire di odio, di rancore, abbia vissuto male. Proprio male. Cioè io penso che noi siamo infinitamente più felici, e non certo perché ci arricchiamo. Io sono, lo dico ormai e lo devo dire ogni volta, io sono una volontaria. Ripetiamolo. Non ho mai preso un euro da Mediterranea, mai nella mia vita, anzi direi che ci ho anche rimesso tanto, come tutti noi, in questo progetto un po' matto che va avanti solo grazie alle donazioni dal basso delle persone, una banca straordinaria all'inizio che ci ha fatto un prestito, quindi nasce da un grande debito Mediterranea. Ma io leggendo, c'è stata una campagna anche di raccolta fondi che sta continua certo, sempre, tuttora, e ne abbiamo un sacco di bisogno, per tutto. Ricordo sempre che abbiamo questi 360.000 euro di multa, ma al di là di questo, quanto costa un pieno di Mariglioni, decine di migliaia di euro, quanto costa fare una cambusa, abbiamo un equipaggio professionale di marittimi che dobbiamo pagare invece con la paga sindacale perché Maraglione è una nave commerciale per le regole che ci sono in Italia, quindi è un'operazione che ha ovviamente dei costi enormi. Ma io un giorno vorrei fare un libro con le causali dei versamenti di questa campagna di crowdfunding, perché sono bellissime, perché anche degli adesivi da restituiscono una, la bellezza di questo paese, cioè proprio il matrimonio di Daniele e Giulia, che non hanno voluto regali, hanno chiesto di fare donazioni a Mediterranea, 40 anni di Dario, le cene di parrocchia, una signora emiliana, questo è indimenticabile, che è morta anziana e ha lasciato scritto che non voleva fiori ma voleva il supporto a Mediterranea. Questa è questo è il nostro equipaggio di terra e noi andiamo così fieri, siamo così grati. E il pieno costa, le persone non le vogliono, che ce li portate a fare? Li salvate in mare e poi li fate diventare schiavi qua in Italia a raccogliere i pomodori a un euro al giorno? Come si può rispondere ad attacchi simili che chiaramente annullano del tutto qualsiasi approccio umano e solidaristico tra persone della stessa specie? Di soldi dobbiamo parlare. Parliamo dei 6 miliardi di euro dati a Erdogan per bloccare i siriani in Turchia. Che cosa ci si poteva fare con quei 6 miliardi di euro, non solo rispetto all'accoglienza ma rispetto alle popolazioni europee? Parliamo delle decine di milioni di euro dati dall'Italia. Possiamo a dei miliziani libici in questo momento. Non si parla mai di business della frontiera. Esattamente. E che dovremmo iniziare magari a mettere quello sul piatto. Business del controllo delle frontiere, business della guerra. Noi siamo i terzi venditori al mondo di armi, c'è un giro di soldi sulla violenza, sulla guerra, sulla chiusura delle frontiere, che riconvertire quello, è che davvero questa strumentalizzazione delle migrazioni è riuscita a spegnere i conflitti e lo spirito critico in gran parte di questo paese, a convincere le persone che bisogna prendersela con i poveracci, più poveracci di noi, invece che con chi detiene soldi e potere e fa aumentare le ineguaglianze e le povertà in questo paese. E poi si dice a noi, ora i costi di Mediterraneo sono insostenibili, sono difficilmente sostenibili per noi, ma sono una barzelletta per qualunque governo, parliamo di 2 lire con cui non cambi certamente le sorti di un paese e non rimetti nemmeno a posto a scuola, ecco, diciamoci la verità. Mentre invece le risorse che vengono investite per il controllo delle frontiere e per la guerra in Italia potrebbero cambiare radicalmente l'accesso ai diritti sociali, per esempio, delle persone in questo paese. Quindi così si risponde. Dopodiché diventano schiavi qui, certamente, perché c'è una follia che ha tolto, che si chiamano leggi sull'immigrazione in Italia, che potrebbe essere evitata con la ragionevolezza. Già il sistema di base della chiusura dei canali di ingresso legali rende le persone irregolari e le rende schiave, le rende sfruttabili. Ma in più anche quelle che erano riuscite, nonostante questa follia, ad avere dei permessi di soggiorno, a integrarsi, io ne conosco centinaia a Palermo, con il decreto sicurezza, il primo, non il secondo, e la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, hanno perso tutto, l'80% dei ragazzini arrivati a 14-15 anni in Italia, quindi regolari fino ai 18 anni, avevano avuto quel permesso. In quegli anni, fino agli 18 anni, avevano studiato, avevano imparato benissimo l'italiano, si erano iscritti al liceo molto spesso, avevano fatto tirocini, erano perfettamente inseriti, si sono ritrovati a 18 anni un giorno in mezzo alla strada senza più un documento, a diventare i cosiddetti clandestini. Allora, chi è che crea gli schiavi, lo sfruttamento e l'insicurezza in questo paese? Certamente non è un problema di Mediterranea, che si attesta sul livello minimo che le persone non devono morire in mare. È una follia dire a chi salva le vite in mare e però poi le persone diventano schiave a terra, perché c'è una decisione politica su questo e si deve cambiare con la politica e facendo finalmente delle leggi intelligenti e ragionevoli che aiuterebbero tanto anche l'Italia, perché enti come l'INPS non fanno altro che mandare fuori statistiche che ci dicono, ci spiegano che un'immigrazione controllata e regolare molto più ampia di quella che c'è adesso ci aiuterebbe tantissimo anche a sostenere l'economia di questo paese. Agli occhi vivi di un colore simile al bronzo e dentro c'è una galassia. Non so perché, ma penso all'ennesima volta che si presenta la polemica sui crocefissi nelle scuole. Se in ogni classe ci fosse almeno una docente con la sua umanità, credo che vivremmo un po' meglio tutti e si dovrebbe parlare di cose come queste. Mentre controllo il registratore, alzo lo sguardo e la vedo. Eleonora Camilli, reporter di Redattore Sociale. La becco nella stessa identica espressione del suo profilo Twitter. Lei è un mio idolo indiscusso. Mi chiede di cosa vogliamo parlare e vado nel panico come un adolescente. Non so, è come se trovassi i Beatles a una festa e mi chiedessero: ah sì, ciao, che canzone vuoi sentire? Così escono delle parole, ma non ne ho il pieno controllo. Lei è un genio e di recente si è occupata del business della frontiera, quello a nord che non passa per il mare. Siamo qui con, abbiamo la fortuna di, io sono un fan sfegatato, lei lo sa per la quantità di messaggi inviati su Twitter a rischio denuncia, ma eccola qui di fronte a me, Eleonora Camilli, redattore sociale, cronista che si occupa di temi legati alla migrazione, alle migrazioni e di quello che accade in Italia e non solo. Su Redattore Sociale i suoi articoli, come del resto tutti gli altri articoli di Redattore Sociale, hanno una qualità e una profondità notevoli, per cui sono sicuramente un punto di riferimento per restare aggiornati su questo. Noi ci troviamo adesso in un festival che si chiama Porti di Terra. Non è l'unica frontiera che c'è, ci sono le frontiere di terra, dovrebbero esserci anche dei porti di terra. Sulla terra cosa succede invece? Allora, io di recente sono stata sulla rotta balcanica, in particolare a Biac e le città limitrofe, Vučjak e Velika Kladuša, che sono tutte delle piccole cittadine al confine con la Croazia, dove da più di un anno c'è un numero elevato di persone che cercano di passare la frontiera. Questi tentativi di passaggio li chiamano il game, esattamente proprio un gioco pericoloso, perché vengono respinti con la forza e portano i segni di queste violenze, violenze da parte della polizia croata sui loro corpi. Quella di terra è una frontiera poco raccontata, basti pensare che in Italia a Trieste per la rotta balcanica sono arrivate più o meno quest'anno le stesse persone, lo stesso numero di persone arrivate via mare, eppure non le vediamo, non le raccontiamo, probabilmente perché il discorso giornalistico, mediatico segue quello politico, quindi mentre il discorso politico si focalizzava su appunto la guerra alle ONG e quindi la via del mare, tutto quello che succedeva da un'altra parte, appunto in Bosnia, in Croazia ma anche in Slovenia, non veniva raccontato. Lì, come appunto in mare, quello che si sta portando avanti è una strategia di esternalizzazione delle frontiere, cioè in questi paesi di confine si cerca di respingere le persone, si creano appunto delle zone cuscinetto per tenere le persone fuori dall'Unione Europea. Quindi queste persone portano, è paradossale perché i segni del passaggio li portano sul corpo, ma non c'è segno del loro passaggio perché per esempio le impronte digitali non vengono prese, proprio per evitare che loro possano fare domanda d'asilo nel primo paese dell'Unione Europea che incontrano. L'altro tema poco raccontato, noi raccontiamo spesso il business dell'accoglienza, no? Il fatto che c'è anche chi lucra sull'accoglienza dei migranti, mentre si racconta molto poco il business della frontiera, cioè il fatto che si stiano spostando ingenti fondi proprio dall'Unione Europea, dalle Commissioni Europee, per bloccare le persone ai confini. Quindi ci sono anche aziende private che stanno lavorando su sistemi sempre più raffinati per aiutare questo tipo di strategia. Eleonora, ti ringrazio di cuore e grazie, alla prossima. Ci vediamo su Twitter. Siate porti di terra. Per alimentare il mio senso di inadeguatezza, chiedo loro una foto e che fanno? Chiedono a Francesco Malavolta, fotografo di UNHCR e OIM, per esempio, tra gli altri, e c'è una sua mostra alle nostre spalle, per dire. Chiedono a lui di scattare la foto con un tablet, io voglio morire. Così scappo in auditorium e acchiappo Gabriella. Appena finito il suo intervento energico e potente ed è ancora adrenalinica, mi sento una brutta persona pensando di rovinarle un momento così speciale. E mi viene spontaneo darle un bicchiere d'acqua e chiederle come va. Casino, però, mi sa, dentro, o meglio fuori dall'altro lato. No, va benissimo. Per i bambini, no? No, i bambini okay. Ci vogliono, sennò siamo finiti. come sta andando? Credo e spero bene. L'intenzione e la volontà è quella, come ho detto prima, di creare legami, una comunità. Siamo un festival solo perché facciamo una festa che dura 3 giorni, alla quale lavoriamo tutto l'anno, non per il palco, per i fiori, per le luci, ma per le relazioni. È la cosa più importante per noi. Porti di Terra, Caritas Benevento, Consorzio Sale della Terra, tutti i nostri sindaci, noi non abbiamo né padroni né padrini. Noi abbiamo un unico padrone, serviamo un unico padrone, che è l'uomo, l'umanità, in tutte le sue declinazioni. Cerchiamo, perché è chiaro, siamo imperfetti, possiamo sbagliare, però sicuramente lo sguardo è al complesso, al complessivo e alla complessità, perché noi siamo una società complessa. E quindi, insomma, in questo il fatto che siano venute tante persone mi fa dire che va bene, l'orario è quello che è, insomma, siamo ancora comunque a settembre, quindi, insomma, sì, sono contenta. Beh, a settembre c'è un bellissimo tramonto e c'è un teatro qui, esatto. Era la seconda volta in vita mia che veniva a Benevento, quindi mi sono un po' perso e mi sono trovato davanti un posto meraviglioso, è pieno bella, di gente, era... Sì. Impossibile sbagliare nelle diverse stradine. Io non ti voglio rubare altro tempo perché c'è la conferenza adesso, il panel in atto. E dopo possiamo parlare eventualmente. Dopo ne parliamo. Voglio solo chiederti una cosa. La citazione che hai fatto ora nell'ultima parte del tuo intervento, come rispecchia il lavoro di un anno? Lo racchiude? Quale? Quello sul capitale sociale, sì, o sulla, sì, comunicazione? Sul capitale sociale. È proprio la quintessenza, quello che ho detto sul capitale sociale è la quintessenza del nostro lavoro di un anno. Vale a dire, abbiamo lavorato e stiamo lavorando sulla costruzione di reti di comunità, reti di persone e di comunità. Abbiamo capito dal grido silenzioso di 60 milioni di migranti che si stanno muovendo nel mondo che in particolare le aree rurali, le aree interne possono fare la differenza. E se tu consideri che i piccoli comuni sono il 70% dei comuni italiani, noi abbiamo dalla nostra un grande potenziale. Se facciamo ripartire quelle comunità, noi facciamo ripartire l'Italia, però con uno sguardo e un'ottica diversa. Non più economia predatoria, ma economia civile, economia che guardi ai territori e alle persone. Non è il mulino bianco, non abbiamo una ricetta magica. Noi abbiamo sicuramente la certezza che ci vogliamo provare e gli strumenti ci sono, strumenti di welfare che diventano, se utilizzati con progetti personalizzati e mirati, diventano welfare. Grazie Gabriella, Porti di Terra 2019, terza edizione. Grazie, buon lavoro e buona continuazione. Grazie infinite. Sembra che sia arrivato proprio al momento. Che cosa vuole qui quel pancione prepotente? Che cosa abbiamo qui? No, un momento, sceriffo. Quella è un'elemosina per i poveri. Ne sono convinto. Per questo la prendo per il povero principe Giovanni. Tutto va, anche se poco. Rimettetelo subito là. E sua maestà vi benedirà con tutto il suo cuore, sorellina. Brutta canaglia di un ladro! Via, calmati, frate, io faccio solo il mio dovere. Prelevando le tasse per quell'arrogante, avido, spietato, malvagio principe Giovanni. Senti, frate, a te piace predicare e finirai a predicare col collo dentro il cappio nel boia. Fuori dalla mia chiesa! Fuori! Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.